e quindi si produce una cosa che non è giusta lo stesso, a fin dei conti poi chi si ammazza. Ma lo Stato sa cosa dice? Negli incidenti stradali, quando se non c'è la cintura che ti fai male, tocca mandare pulizia e devi pagarle queste cose, no? Ma è controproducente lo stesso, eppure sono delle leggi assurde che fanno, perché lo Stato mette una cosa obbligatoria che no, che cioè è controproducente per se stesso anche, perché se quello con la cintura muore, si ammazza, non hai di più di pagare niente, mentre invece si rimane invalidi, perché la cintura prende un sacco di invalidi, sono aumentate in dismisura le validità per cose delle cinture. Sai benissimo che cosa accade per una cintura, che cosa accade, la prima cosa ti mette in sedia a carrozzelle, e quindi cosa hanno prodotto? Hanno prodotto degli invalidi e basta, non hanno prodotto altro, e sono delle leggi assurde. Una ragazza che mi sta di fronte a casa è uscita fuori strada, la macchina ha preso fuoco, non è riuscita a sganciarsi le cinture, è rimasta carbonizzata dentro. Se non avesse avuto la cintura magari si sarebbe salvata. Cazzo, lui si è sempre andato sul drastico. Luca Lucariello. Così. È così. Sta a paga. Comunque. Io provo a fare una cosa già. Faccio colazione. Siccome io sono talmente abituato, colazione e sigaretta, ormai è proprio da diversi anni, provo a fare i dolci, faccio colazione, e poi bevo un bicchiere di latte fresco, così vediamo un po' se riesco a non fumare. Fai colazione e poi bevi il latte di nuovo? Sì, fresco però. Vabbè, ti vorrei accusarsi. Vediamo che è il dolce che ti attira, è il dolce maledetto qua. Io la mattina posso dire dalle 8 fino alle 10 me ne fumo 10 e mezza, dai, 5, 6. Io ti dico una cosa, a me invece mi attira dopo che prendo il caffè, così come a te. Anche a me, anche a me. Smettere già, e basta, è troppo, troppo. Qua ce ne fumo di meno il miglio per me. E l'estate mi crea un problema, a me fa respirare male. Io lancio una sfida, io. Guarda, fa. Aio, allora, da domani smettiamo tutti e tre di fumare. Il primo che mi ha scoperto a fumare paga la cena. Così su due piedi si può anche fare, fratello, si può anche fare, solo che per me devi aspettare, non vedo lavorare, lo dobbiamo chiamare, allora vediamo un po', perché sai com'è, noi non possiamo, cioè, oddio, qualcosa la faccio, però qui c'è per casa, noi mi grattano le tralline, non ti faccio mai di niente. Io collaboro, anche se non lavoro, però collaboro. E adesso come sto qua, vediamo un po'. Posso dire, domani non fumo, no? Questa è una cosa... Oh, non è detto, Però per me sarà un po' difficile. Perché ci sono sempre giramenti di scatole qua a casa. Sempre ci saranno. Perciò l'unica cosa che mi può calmare è la sigaretta. Se non rimango nervoso e spacco quanto vuoi. Che bello, almeno quello che non mi fumate voi me le fumo io a gratis. No, aspetta, venite che domani vi pago la cena, va? Ma Lucia, allora io già. Comunque per qua tutti devi dare una regolata, Cerca di mangiare 5 uova, ogni tanto una 5 uova in bocca. E tutti un pacchetto sono zuccheri, date una regolata. Io guarda, il pacchetto non lo supero, eppure non posso nulla, figurati, non posso nulla. Lui è l'ultima, dice, non puoi nulla, tu vuoi tenere con me, tu vuoi tenere con me 3. Insomma, io infatti ho già detto, molto più lunghe delle sigarette normali. Niente. troppe, che per me sono troppe. Sono troppe. Non lo so. Poi si è fatto l'estate, guarda. Una volta al mare, lo stesso scherzo, mi è venuto un attacco d'ansia, tutta buttata lì, non è buttata lì. Stavo respirando malissimo, magari tu vedi la mattina di guida. Poi sono andato pure alla Guardia Medica lì alla rotonda, da solo, perché ero un amico, e dove mi sentivo male, e tu passi in la spiaggia. E niente, è stato malissimo, male. Allora, ho trovato un signore lì, un signore grande, che ha detto che passa con di lui, non sapevo anche di cosa, mi dice, stavo male, stavo crepando, sì, stavo crepando. Sì, vecchio. Vecchio di tu. Beh, Roberto. Beh, Gianni, The Voice, calda, hot, anzi. Così, no, beh, la sigaretta fa male, tu sei un codice, sì, un... come si chiama? Un bruciatore. Ehi, lui si diceva babbo, che se ne può tanta via, la sigaretta fa male, non a tutti, agli affasi male li fasi male. Se ne fumava la butto io. 80 di Marlboro, la Marlboro rosse. E allora, andiamo se quando dobbiamo dire, grazie a Dio. Certo, già, senti, mi buoni fumati. Prima non ci fanno pacchetti. A Paco non la sassi in non viene mai problemi, non ha mai avuto un'influenza, un colpo di doccia, un colpo di raffreddore, niente. Quando è morto dove fa morire? Diciamo che è morto così, dai. È morto così senza né chi è né co. Vabbè, dunque. Vabbè, si sa. Tu sei meglio di noi, cioè fenomeno meglio di me. La sigaretta fa male, fa male, fa male. Io la verità non consiglio agli altri, quelli magari più giovani, quei ragazzi che vedi qua 3-4 anni, 15 anni su me. Ma non la butta la sigaretta, perché tu non fumi? Ma ti danno un consiglio, butta. Come quelli che sono magari più grandi di me. Ma perché, guarda, tu ci lo so, non ci riesco. Ma questi ragazzini qua è facile, perché sono a fare di piano. Io la verità non ci ho provato, ma l'ho preso con i riuscito. Forse il volontà ci voleva, ma ha smesso che aveva 10 anni prima di morire, 75 anni, e ha smesso da 80 a 0. Venerdì fumava, sabato ha smesso. Così vuole, roba. Così vuole. Vabbè, pazienza, che ci vuoi fare? Troppo fare. Siamo destinati. Non dovevamo iniziare da prima. Così Vittorio non ci sarebbe stato. Non sai come? E vabbè, avanti, per favore. Guarda, non smettere così, magari di bottono, non ci riuscirei mai. A meno che sto male, allora sì. Come si dice? Devo diminuire, ma il fumo è lasciato. Anche le 10 al giorno vanno bene, dai, due giorno però, eh. Parlando. A un certo punto mi stavo sentendo male per fare. Non ho detto pa, non ho detto ma non ricorderò come se fosse luce. Non ho detto pa, non riuscivo più a respirare. Vediamo se si vede. Però non è che fumando. E la scorta è proprio una di ansia. No, se ma arrivati già ad Alghero, al centro di Alghero. Stavano in questa casa per fare un condizionatore. Ma ti dico che mi sono buttato tipo come messo a Plattamona, una cosa del genere, cioè quello di Plattamona mi è durato di più 3-4 ore circa, e invece quello qua anche ero un po' di meno. Poi sono arrivati al posto di lavoro e non riuscivo a prendere il piatto bene, poi lì bomba sparicano la macchina. Ho ripreso che ho piatto, tranquillo, ma forse, non lo so, sono calmato, forse solamente ansia. E non ricordo che ho detto niente, nulla. E poi qua è proprio oggi, tu mi calmi, intendi i giochi, non riesco più a respirare. Sì, gli stati d'ansia portano una respirazione molto, ma in certi casi anche di costrizione proprio. Infatti per quello che insomma l'ansia non è una buona cosa lo stesso, però diciamo che è curabile mentalmente anche senza medicine. Però delle volte soffrire ne soffri di ansia, tu immaginate che ne soffriamo almeno un 80% della popolazione, perché insomma tutti abbiamo dei pensieri, delle cose che delle volte ci portano soli soli ad essere ansiosi. E comunque è sempre un fatto psicologico che la persona stessa mi sono deve studiare, perché l'ansia medicina non ce ne sono. Lo so, è una brutta bestia. È una brutta bestia. Vabbè, comunque. Questa volta sono qua, sì, capito, già sto lì a macinare. Capita mai che sta al volo, faccio giorni si vanno, ti va tutto male, ma perché ci pensi, bomba, ecco come la divanità. E una volta lo stesso me lo dettate, è capitato, e chiamiamo, mi fa lui, c'è la giorno che siamo di caldo, mi fa lui, hai preparati che devi scendere la bustina a fare la spesa. Quindi mi massimo sta preparando, sta mostrando la maglietta. Mi scrivo tutto ancora, eh? Sono già pronto. Apro la porta. Sono disumani. Disumani. Sto rispirando male. E basta che non ci guardi. E allora mi ha detto... Allora, preso per 2-3 volte, mi sembra. Come si chiama? Le gocce, l'Exotan. Cosa vuole lì? Poi mi hanno detto, mi passo, guarda, fanne a me. Perché quelle lì sono, ti distruggono. Ho fatto così, l'ho proprio preso per calmarmi, il giorno, poi il domani. Sono 3 volte che sono preso. E fate voi accumulare. Perché mi ha fatto voler prendere. Prendere N si chiama il gruppo. Non mi arrivano tante queste cose, no? Non ci sono voci che vanno più della mente, ma è comunque, è anche un fattore che viene un po' a tutti, insomma. Poi, come tu mi hai parlato più volte d'estate, comunque come si sia, gli stati d'ansia vengono più importanti, sono d'estate proprio al caldo. Lo so. Guarda, allora, mi è capitato così. Arriviamo lì. Abbiamo comprato le sigarette da fare Graziella, le avevamo preso le messe da 10. E poi, dove nel punto dove andavo io si mettevano. Vabbè, e ci avevamo medito anche le polacche si mettevano. E praticamente queste qua si mettevano una coperta, perché era una coperta quella in terra, si sdraiavano a parte a terra senza questo di sopra. E poi c'era, trovavo amici lì, trovavo lì, dentro il bilancio lì, praticamente. Vabbè, facevano una sigaretta lì, tranquillo, qua. Da lì, il tempo mi è arrivato. Così, d'improvviso? D'improvviso, sì. Sì, potrebbe anche, ma di solito lo stato ansia inizia un po' rallentato e poi accelera del tutto, ma l'improvviso è un po' strano. Cosa dicevo per qua? Tanti gugazzati, no? Ti sto dicendo che sono andato, ragazzi, tu bravo fatti, guarda, quindi non è che bravo fatti, non mi succede a che cosa. Poi c'era un medicato, un medicato, quel caso brutto, cazzo, guarda. Infatti, a cacciata c'era un medicato, detto, guarda, amico, gli ho detto, io scendiamo al mare. Questo motorino sono andato da solo. Prima di fare il motorino ho trovato quest'uomo, gli ho detto, forse così, così. Ma tu ridassi, non ci riesco. Sto respirando male, non so cosa fare. E poi niente, e poi sono andato alla Guardia Medica. E lì non mi hanno detto niente. Non ho mai dato nulla, però mi sta chiamando mia madre. E cosa devi dire? No. Un po' strano così, d'improvviso, sinceramente, o magari tu è una cosa che ti entra nella mente all'improvviso, così, però un po' strano. Gli stati d'ansia non entrano mai. Un attimino che l'ha chiamato la mamma. Che anni ci sei? Gianni. Ma bioccato sei Gianni? Gianni doppio ru. Gianni, facciamo l'internet per dormire. Basta che si parli un pochino. Gianni, sveglia che ti sei addormentato con la sigaretta accesa. Davvero? Gianni, mica di domani ti tocca caricare 7 camion. Ma davvero? Questi sono 300 euro in terra, amica. Mi andavo voi che l'avete visti. Ma non l'avete tutti qua, ci sono 300 euro. No, ma che? Ah, già ti scendi, eh. Sì, in coma. Sono dormito dopo il pranzo. Già in coma, no? Siamo riscommessi qua. Come tu ci metti a parlare, lui non ne approfitta subito. Anto, tu non cantare vittoria, che per 3 stelle ce l'hai fatta. Ma per ben 2 volte. Vedi, diciamo, ci dati i consigli, adesso sei tu in queste cose qua, cioè stai facendo un gioco... volontariato, ho scritto a biocchi, questi sono discorsi belli, vedi, perché a me non sai dare, non so, una, non so, non so neanche come che funzione abbia questa cosa dell'ansia. Ci sarà un metodo, sicuramente. Guarda, infatti con questo, sono sincero, sono sarei stato così senza lavoro. A partire fuori, dimmi gli amari, perché c'è un nostro problema qua? Cioè, questa la sei cardinocchi, ma in manco va sogno, fuori sei stato. Ho sentito infatti che l'hai detto anche l'altra volta che ti prende male andare fuori da solo, è una situazione un po'. Gente che fuori lavora, sta bene, vivono la giornata, perché c'hanno i soldi, chissà quanti soldi, no? Purtroppo pagano l'affitto, poi c'è la macchina a pagare, mettere i soldi in casa, escono lisci lisci, però fanno bene, non c'è quanto, diciamo, facendo la fame, perché stanno facendo la fame. Infatti io ho detto, ma qualcosa fuori, cioè, insomma, niente, ma sicuramente comunque è uno stato che potresti viverlo tranquillamente, cioè ci sono le cose adeguate, perché non lo so, magari anche tu hai uno stato di vergogna, non lo so, così ti senti così magari vergognoso. No, non è fatto di essere vergognoso o meno, il problema è che sono da altre parti, non sono, cioè non riesco a ambientarmi, oppure non so, perché a volte ci pensi, ma è fatto, poi da lì inizia a venire la preoccupazione, magari ma le cose vanno male, tante cose per qua, e non mi sei ricciato, ma mi manco bassoni, pensavo andato su a lavorare, solo che non ce la faccio, non, anche non dico da poco, ma sai, guarda, però ce n'è un bel, solo c'è un problema, il problema è questo, che ti trovano a casa, poi se trovi a casa, il lavoro lo trovi subito, e solo questo problema qua per fa, perché se non avessi questo problema, non sarei stato in opera, addirittura, assolutamente, guarda, assolutamente, mi sa che avevo anche parlato, un po' così, io cabusuglio, ma so che me non c'è buona, ecco, mi stavano dei consigli un po' brutti, allora non sono più andato, e così niente, se mi ritrovo qua, tante volte capita anche viaggiando, anche qua in Sardegna, tipo Sassari Ulvia, in Emilia Mari. Addirittura, ma su queste cose però non bisogna rivolgersi a dottori che non vanno, sia di acqua, stiamo parlando di una corsia, ci sono i dottori che sono predisposti per queste cose, che se uno si rivolge a CPT, logicamente, ma ci sono le persone adeguate, però magari anche, perché queste cose non sono cose da curare con medicina, perché quando vengono affrontate con medicine non è una cosa vista, oppure che sono puramente consigli sbagliati, perché magari ti posso dare, ad esempio, il consiglio sbagliato te lo posso dare anch'io, ma l'unico consiglio giusto è di rivolgerti alle persone giuste, perché è una cosa che la devi vincere tu mentalmente, o decidi tu di mettertela mentalmente bene in testa, che la vita è così e che c'è un cambiamento della vita, a un certo punto uno deve andare e fare. Oppure semplicemente che ti rivolgi a persone adeguate, rivolgersi a queste persone che danno dei consigli sbagliati, che è come ti devo mostrare pure io, vai a mi veniva molto spesso e guarda, facciamolo passare dopo bere. E non sono alcolizzato io, mi fa dire, non è che sono ogni giorno bevo, no, non mi interessa. No, mi mettevo a mettere, ma per tipo una bottiglia di birra dove mi cicciavo, ma stavo bene, tranquillo, sereno. E stavo veramente bene. Non è che era il bisogno di ripetere, mi calmavo, ecco, non lo so. Stavo in giro la moto così, trovavo amici in blocco a parlare, una cosa un po' strana, era una cosa un po' strana. Adesso è da un bel po', da un bel po', che non mi piego. Dipende dal periodo anche. Dipende, sono cose che ti metti a macinare, stai sempre frullando il cervello, frullando, ti poni un po' di problemi, tante cose. Ma ci vuole uno sereno, poi vabbè, giramenti di palle, casa, là, bomba, fai tutti i canti di contro di te, ti poni tipo in millibarano, in chi, ecco per ti viene l'ansia, alla fine uno sta sempre macinando e pum, ti viene questo problema qua. Infatti ho capito che cosa si tratta e lì dovresti trovare soltanto la persona giusta, che ci sono, ti capisco, purtroppo è una brutta bestia l'ansia, lo sai che cosa è l'ansia? È brutta quante altre 100 malattie più brutte, capito? Non so, depressione è anche bella. E la depressione è ancora peggio. La depressione fa parte anche dell'ansia, l'ansia si trasforma. Però non lo so, caratterialmente, cioè io quello che potrei dirti è che non qualsiasi consiglio non devi accettare la persona così. Né da me né da nessuno. L'unica cosa che vi ripeto che si può dire su questo genere di cose è che si deve andare dalle persone giuste. Tutto lì. Là, te lo dico in partenza, non accettare mai consigli su questo genere di cosa da persone che non sono valide, quello che potresti dire tu a un altro, quello che potrei dire io a un altro, e sono tutte cose che non servono a niente, capito? Non è la cura adeguata, questa è una cosa molto, molto particolare. Anche spiegarlo è un po' difficile, ecco, anche spiegarlo. Non so, per chi non lo soffre, non sa neanche cosa è. La cosa è brutta, dipende, c'è un periodo che l'estate sto tranquillo, perché vai lavori, tranquillo, ma dipende da, non lo so neanche io, la verità, dipende, è una cosa molto brutta, la sua vita brutta, brutta. Soprattutto quando fumi più del dovuto ti crea questa cosa qua, ti fa respirare male, è un bel casino, e guarda, non sarei stato di nuovo per qua, assolutamente non sarei stato qua, perché quando uno sta bene non ha problemi, più anda, non si va di tutti i cose, però quando uno soffre di questa cosa qua mi è un po' difficile, a meno che prende dei medicinali, e poi quelli sono è peggio, perché poi devi, diciamo, diventi, come si dice, sei costretto a prendere queste medicine che poi ti è peggio, ti butta a terra, diventi un tossicodipendente, praticamente. Infatti queste gocce qua, ho fatto proprio, mi sono lavata mia mano, come mai per prendere pastiglie per dormire, quelle gocce lì, molte persone le prendono per dormire, ma io proprio gli assuadi, infatti tenevo in tasca. Io non mi stavo parlando a testa media, 3 anni fa, 4 anni fa. Io ho dato quella depressione, mi aiuta a localizzare. Qua te lo dico che perché io purtroppo ne ho qua una, mia madre, che soffre d'ansia in una maniera dismisurata pure. L'ultima ieri notte lì si sente delle cose stesso che poi in effetti non ha. Ad esempio si sente, lei sente che dice che ha dei battiti accelerati, delle cose, lei è operata di cuore tra l'altro, però lei soffre moltissimo del mondo d'ansia. E siccome io qua ho tutta l'attrezzatura, le misuro i battiti vanno bene, misuro la pressione, misuro la pressione da 1000 una notte, misuro la pressione, va bene, ecco. Però quando riprende questa cosa, sono delle cose che non sono assurde da dire, però sente 1000 cose, non riesce a dormire. Poi che cosa gli fai, no? Gli fai la cosiddetta uva zuccherata. Per esempio, gli stesso prende no, perché poi io gli ho soltato l'intero tubetto, gli ho riempito di acqua, sì, metto, gli metti dentro il bicchiere, gli fai bene, ha capito, ha dormito tutta la notte. Quando prende queste cose, ma è soltanto, sai che cos'è? Ha avuto una cosa psicologica. E io lo so perché con lui ci combatto da tanti anni, che è così, però l'unica cosa è che non vuole sentire lo stesso di essere aiutata dalle persone giuste. Ehi, non so, aspetta, che è, vuoi entrare avanti? Vuoi entrare? Tu, no, tu non vedi tu che stai che un misotto che un po' ti disturba. Ehi, lo so, il ticcarozzo, eh. Che gente, ragazzi. Non so, comunque è una cosa molto brutta. Gianni, inutile dirlo a Gianni, perché tanto Gianni ormai è nel mondo dei sogni. E dopo cosa dice lui, visto che lui è in mezzo a queste cose, dai. Non sa, qualcosa ne sa sicuramente. Gianni, cosa ci dici tu? Gianni. Mudo tu, Gianni. E bisogna suonare un concerto. Ma se te ne vai. E te vuoi sentire in viaggio di nuovo vulcano, sì. Gianni! Svegliati! Gianni! Sveglia! Sveglia! Sveglia, sveglia, Gianni. Baba Baba. Bip. Cane. Registra a me, aiuto. Questa volta mi pare che farà peccatore di un tutto. Registra a me, aiuto. Seminario 10, cazzo. Gianni, giù. E tu, poco ce l'hai, vai. Ce l'hai. Hola, la, la, la. Ecco, ecco quanto. Non ce l'è, parla. Capo. Senti qua la voce mascola di Antonio. Capo. Vai, che voce mascola, se mi succede, vai. Bello mi, sono tanto, Hai già, metti il regista, tu vuoi sentire, vai. La voce da femminuccia. Vai, c'è un doppio rumo, fa un passaggio, capa. Ehi, ehi, dai, Anto, mi sembra una femminuccia, mi sembra una femminuccia, che voce mascola, dov'è la voce mascola? E mi la vedi un momento. Ah, va. Bello, registratemi. Vai, per fa, è finito, non me ne più. Rimanente a zero, non me ne più. Non si può registrare. K. E qualcuno lo cancello dopo. Vediamo un po'. Indietro. Tempo indietro. Aspetta già, ecco, andava. tanto anche a te. Ciao. Cavagava. Che ha voce mascola. Allora già, dimmi una cosa, cosa ne pensi dell'ansia? L'ansia, da che cosa è causata questa pelle? Ha problemi, da stati, diciamo, confusionali, eccetera, eccetera, è causata da quello. Si può curare senza medicine? Quello lì dipende anche da te. Solo che l'ansia è una cosa che si può trasformare, può peggiorare e può andare in depressione. Bisogna stare attenti su queste cose qui. L'ansia si può trasformare se spariscono i problemi che c'erano. A volte viene anche da bisticci, famiglie, tutte queste cose qua, da problemi non risolti, tipo venire l'ansia, ma è venuto anche a me, attacchi di ansia mi sono venuti anche a me, nel senso che ti prendeva il respiro così, proprio di notte mi succedeva, quando lavoravo un bel, me lo faceva quello, il problema era lavoro. Ma come reagivi tu? A me non è che mi veniva spessissimo, però cercavo di reagire. A volte mi succedeva quando entravo a lavorare, mi prendevo questa tremoreva, quest'ansia un po' strana, e sapevo già che c'era un bel lavoro. Come entravo? Gianni, ecco, sembrava. Coppa. Non so, comunque. La brutta cosa, non sai che dica, troppe bussia, è un casino, molto grande, comunque abbassa un bel po' che non mi viene, ma da tanti anni comunque così mi già, ogni tanto non mi viene, soprattutto d'estate. Le preoccupazioni sono queste cose qua, te lo fanno. C'è preoccupazioni, magari per te è anche la causa del lavoro che non hai, ti vedi crescere, vedi che sei grande e non abbattano più male, sia una cosa bella. Magari è anche così inconsce che tu non riesci a capire, sono cose che magari il nostro fisico reagisce in questa maniera. No, io ho preso anche così, ti dico la verità, sono andato anche da un neurologo perché non fumare stava trasformando in depressione una volta e sono dovuto andare da un neurologo, ho pagato la visita a 80 euro, mi ha dato subito mi ha detto che devo stare tranquillo, a volte anche le voci che senti in casa, tutte queste cose qui, la mancanza di tranquillità, hai capito? Sì, a parte, su quello non c'è problema, come stavo dicendo a Pierpaolo. Sì, vabbè, cifra, a parte anche la sigaretta, ma... vabbè, comunque sia, già, mi è capitato anche tante volte di, cosa ne so, un assillo, o di busto di un telefonino nuovo. Beh, lì mi assillo e sto tranquillo, anche comprando una cosa per dire, no? Però quando ti trovi molte volte, non so, io non so cosa fare, non so dove andare, ti bilimari, tante cose. Adesso per esempio l'anno scorso dovevo andare ai candelieri, non facevo andare a chi non stavo bene. Ma non sai che cos'è? È il fatto che ti prenda così quando non sai dove andare, cosa fare, eccetera, eccetera. E quello è il problema, cioè il problema è a volte anche la solitudine, a volte il fatto di associarsi dagli altri, tutte queste cose qua, sono tutte cose che contribuiscono a me mi attribuita a volte, così anche dallo stress del lavoro, capito? Più che altro a me per il lavoro, perché a volte ci penso l'indomani che cosa, quanto lavoro avrò, ce la farò, non ce la farò, bevi l'ansia. Non so. Vabbè, diciamo che molte volte, vari, delle volte preferisco stare solo, tranquillo, avvino me. Così non. Capita, sono gli amici al bar, lì, tranquillo. Diciamo molte volte che preferisco stare più da solo. Ma è qualcuno, dai. Proprio uno, due, non di più. Siamo tranquillo, non c'è un problema per quello. Una cosa un po' strana però. Proprio attacchi strani. Beh, quando lavoro per dire non. Guarda, a quanto mi ricordo io non mi è mai capitato. Perché sta lavorando, ti fa le tue ore, poi ci vai a casa, ti fa una doccetta, ti sdrai, poi dobbiamo lavorare, poi devo arrivare. La settimana di paga, sei ancora più contento, avete i soldi in tasca, e ci fai, va a comprare, anche quello comunque, anche per il coso del lavoro, ma comunque, a me mi hanno consigliato di prendere queste gocce, l'Exota, però io non le prendo. Sassa. Anche a me me l'avevo dato quelle lì, ne ho preso per due giorni e non le ho più toccate. Ho detto devo reagire da solo, non ci devo riuscire da solo a reagire. E comunque è dovuto anche a quello, perché quando io entravo a lavorare, subito mi veniva un mal di pancia, di arrea e cose, come è proprio dall'ansia, capito? Carattere anche. Sì, è vero, anche quello è la sensibilità di una persona, lo fa. Ci dai in piedi più del pa. Lo sta succedendo. Vediamo che ci sarei già buttato su quel divano, Luca. No, io non lo faccio. No, io Uia. Ma dove che di camera è uscita, Ega? Hai avuto a vedermi la gamma, ciao! È bella la ragazza, tutte e due sono belle, bravissime. Dimmi di cui è sabato. Sono gnocche. Non so mai quella che ha partecipato. E un burro che c'è di me, di lui. Non so invece, Ma, mi sono. Diciamo insomma non gravi dai capita, purtroppo. Io grazie a Dio per quello già non ho problemi, per quello non problem. Da qua nessuno a casa, nessuno, neanche mia madre. E vabbè, ok, poi Franco, cosa stai facendo? K, no, stavo lavorando al computer, tanto per cambiare. Mi ma tu stai raccordando, mi stai sovramodulando, cosa stai facendo? No, stavo facendo delle prove, ma no, ho bloccato tutto. Fatto che arrivano anche il mio armadio. Che bello. Ti faccio parlare con un muro. Ma che maro è? E poi ti mangi un brodino di mammo. Buono. Vabbè, Franco, allora, vabbè, al computer. Non sarà, non è una novità, Fra. Non è una novità. Te l'ho tutto fatto, l'ho detto, Fra. Sì, andiamo a letto. Mi è venuto anche da ridere. Perché? Perché non riuscivano a far funzionare il comando. Stava provando. Poi non so come. Neanche io mi sono messo perché no. La verità non sapevo neanche da che parte iniziare, a parte che non me ne ha neanche dato, però. Vabbè, non è un problema, però come? Bisognava configurarlo con il computer. Se bucava bene i domani, via. Ah, per carità. Se non vedi, se no il computer. E ciò va bene. Via. Cappa. Vabbè. Comunque ho visto che ha fatto un paio di CD masterizzati, cacchio, micidiale, fa un bel fretta. A leggere i file ci mette un bel poco, è un bel potente, bello, pure con il mixa, insomma, con la parola. Se vuoi di una certa dimensione caratteristica lo paghi, è così. Non so, bello comunque, nel computer, ha voglia, 2 giga di memoria la settimana che c'è, no? Gianni, fai girare, Gianni, non ti addormentare. E allora io sto all'ascolto, se no non dormo più oggi. Mi saluto che convenzionalmente vi ascolto, se no quando posso poi vi sono tutto. Lo butti. Già! Tu dovresti pagare doppia tassa. Ma dov'è, eh? Ma comunque, facciamo... Ma mettiamo giù a Cagliari. Non solo di trasmettere, rimani pure all'ascolto, mi pone doppia tassa. Ma così è? Allora mi conviene trasmettere. Se trasmetti, ascolti, paghi sempre 12 euro. Ma se trasmetti, poi ti rimani all'ascolto, devi pagare il doppio almeno. Se no il triplo. Ciao, buon riposo. Ci siamo più di tardi o le prossime mattine. Poi parli con muro. La mia ascolta a parte di schede, se no se mi sono inviati di nuovo a casa non trovo più, mi avete già citato tre fusi. Ma scusa un attimo già. Scusate, se te lo dico. Io non ho dormito, prima di trovare un aracchino, non è come la sai, no? Non si invoca i gufi. Quando vado a spengo tutto, sono solo così. Sono buro. Ah, già dovresti pagare il quadruplo, non il triplo, il quadruplo. Sfruttamento quello, sfruttamento. Ma cosa pesce? Sfruttamento della prostituzione della parola. Chiaro, come tu dici il ristore, te lo tieni in ascolto, quelli ti addormenti. Già fra, ti hanno sovramodulato per papà. Certo, fai bravo, finisce già lo sai. Cos'è che fra, non ho capito. Niente, scherzo. No, già ho detto, comprati un ricevitore, così ti ascolti e ti addormenti, così non puoi parlare. Lo tieni basso. E se lo ricevitore? piace ascoltare a voi. Lo tengo basso, anche qua tengo basso, sono in cuffia e quindi quando sento parlare, no, ascolto i discorsi, poi piano piano mi addormento. Mi serve come Nina Nanna. Già va bene così, no? Già va bene, vai Antu. Ciao. Lui si addormenta sempre, però che te voglio dire, che succede, è successo a me anche l'altra volta, che mi sono dormito col baracchino acceso per ben due volte, perché anche i discorsi quando sono molto lunghi ti viene il sonno e poi sembra che ti si spenga tutto. Allo, sì, Anto. È capitato anche a me quando ce l'avevo giù in camera da letto, però adesso ho spostato e quindi niente, quando spengo spengo. E capa, capita così. È capitato quando l'altra volta che mi sono addormentato. Mi è entrato babbo, mi è entrato atteso un va, mi sono svegliato di colpo, boh, ho sentito tutto. E già capita, quando ce l'hai vicino capita, perché lo lascia acceso per ascoltare. Mezzo guys. Capita sì. Boh, però prima non mi addormentavo mai. La stanchezza, che ne so, qualche cosa del genere. No, io ce lo so, ce l'ho spostato da una parte, così quando devo spegnere spengo e me ne vado al nanna, proprio per riposare. Gianni, allora ti sei dormendo, buonanotte. Gianni, tanto già grido, così e pompo un pochettino, così mi ti sveglio. Ma io raccolto le barzellette, così mi addormento lì dentro. Già, male ti è andata, barzellette non le conosco io. Se vuoi ti posso raccontare una fiaba, va bene una fiaba? Cosa, cappuccetto al rospo? Se non è rospo, già lo stesso. Vabbè, dai, continuate, già vi ascolto. Sappiate che sono all'ascolto. No, io sto chiudendo già. Domani devo alzare alle 5. Non ce la faccio, sono stanco. Oggi lavoro tutto il giorno. Anche oggi, che è domenica. E quindi ho necessità di riposare. Se domani mattina... Oh, non me ne alzo neanche a cannonate. E allora buon riposo, dai. Cappa. Ormai così presto fa. Già, cioè, è un periodo che sono molto stanco, sto rientrando tardi, sto lavorando a sabato, stamattina ho lavorato, oggi ho fatto il bagnetto al cane, mi sono fatto un po' di roba in campagna, sono stanco, è un periodo che mi sento stanco, forse l'età sta iniziando a farsi sentire già. E no, tu, a parte tutto, ti stressi un bel... Tra le tombe di volte ti colichi tardi, qualcosa aggiustando, facendo, e quello lì ti non risente il fisico. No, ma te devo, come mai così presto, non adesso, no, domani mattina, come ti svegli così presto? Perché devo, sto facendo un cablaggio, una rete a una scuola. Però siccome c'è un problema, allora devo andare in ufficio, risolvermi il problema prima a livello... praticamente lo devo testare sul banco e poi portarlo giù e devo finirlo assolutamente domani. Capito, quindi si incasinato perso, e vabbè, ti danno praticamente il termine, devi per forza consegnarlo quel giorno. Bravo, là riprendi Luca. Via, sono rientrato. Franco, mamma mia, me fa ore, me fa casino, ci vuole un po' di relax, cavolo, sennò uno casino. Ci vuole, poi soprattutto lì che lavori di col cervello, ha bisogno di riposo anche. Altrimenti va in tilt. Ehi Lu, il problema è quello. Però diciamo che già sono abbastanza tranquillo. È che ho una passione, quindi oltre al lavoro è una passione, quindi mi porto a fare delle ore allucinanti. Però mi piace, quindi non le considero io le ore. Però effettivamente ci vuole un po' di riposo. Infatti in questi giorni, un paio di mesi che sto riposando, infatti non sto facendo niente, riposo assoluto, perché devo dedicare tempo al lavoro, però ogni tanto già mi piace svagarmi. E adesso ci vuole, non dico troppo perché altrimenti poi un casino, poi in quel settore lì si chiama la destra manca, non so, è meglio ci sia sempre lavoro comunque. Però con il troppo stupia, non va bene. Lo so, purtroppo il lavoro è quello che è, e quindi quello che riesco a racimolare nei periodi buoni lo racimolo. Poi ovviamente ci sono i periodi buchi e devo compensare. Quello che è vero, però sono d'accordo con te. Vabbè, tosta lì, molto. È molto tosta, è un lavoro molto difficile, che non è un lavoro facile. E devi sapere tutte le cose, non vinto, mamma mia. Guardi, non so per quale, ma c'è Biocadu Bruduno. Io sono un bel arzillo, non mi abbiocco così, no? Non mi abbiocco così facilmente, io ancora ho delle ore da fare. Ma così è? Sì, se Dio vuole, forse verso un e mezzo, le due, inizia a fisicarmi gli occhi a me. Ma così è? E vabbè, ma però quando chiudi qua, ti guardi la TV. Quando chiudo qua, se non c'ho voglia di dormire mi assillo con il computer. Ah, uscire. Sarebbe una brutta idea. Vedi, almeno ce l'ho io, mi sarei assillato di tuo computer. Signori, la mia sveglia ha suonato. Era di andare a nanna. Saluto, buon proseguo e buona giornata per domani. Ciao Pierpaolo, ciao Antonio, sei ancora in ascolto, ciao Luca, buona giornata per domani e buon riposo anche a Gianni. Ci sentiamo alle prossime, dai. Spero al più presto. Ciao Fra, buonanotte. Ciao Fra, ciao. Tutto ricambiato al 100, buonanotte, buona giornata anche a te per domani e fatti sentire. Ovviamente non c'è tempo e niente, la brucia, ciao, vai per qua. Ciao, buonanotte Franco, buon lavoro per domani, ci sentiamo tutte le prossime. Pappa, ok, ricambiati. Saluto neanche le SW in ascolto, sto anche studiando Lu, quindi è un casino per me, troppi impegni, però a maggio devo scendere. Vabbè, ci sentiamo alle prossime, ciao, bye bye. Vediamo se mi è stato riferito Fra, non c'è problema, vai tranquillo, ci mancherebbe, ciao ciao di nuovo, vai Antu. Ciao Fra, ciao, ci sentiamo alle prossime, dai, quando è tempo entra e ci fa sempre piacere, ciao ciao. Oh, ciao a tutti, buonanotte. È così, è così, è colà. Gianni, se non ci dà uno spunto non troviamo un discorso. Già, io adesso lo spunto, dai, poi te lo menti. E allora, tutti due anni ma ci ubbiate un caffè stasera, va a pigliar sonno, sarà per pavo, verso quell'ora che ne tutto mi sono più tardi un burro. Un'altra cosa, anche quello che fa venire tachicardia. Cosa? Un caffè, mentre biglia gruppo, che se no di bigliare si è prego, mi rivolgo ma con i bisi, guarda. Pensa a due. Non si può disponibile a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alla Valadino. Assolutamente. Ma ne ho preso uno stamattina con Claudio, macchiato anche, oltretutto. E uno stasera a casa, ma poi ne bevo poco, è un goccettino, non è che ne bevo chissà quanto. Non i vidi che se ne vanno. Sento che non gli piace il caffè. Poi mi sono ciullato 5 spumanti di dolci che mi ha stato un tumato, ma buono lo spumante, uno spettacolo, buono, buono veramente, dolce e frizzante, ma un buon po', io guarda, non ne ho mai bevuto, e oltretutto non mi ha fatto neanche mal di testa, ma ha tuntunato di sì, però mal di testa zero. Ma lo sai chi sono quelli che fanno mal di testa? Anche se che cosa ne bombo? Ma sto vino è tu, va, al bacio, ma buono, dolce, di lusso, dice quello del bar. Se ne fai la tippa, se ne bevi troppo poi già fai le tronca alle gambe. Vero. Ma che vino era? Di proprietà o di cos'è? Ma se ti parli di spumante dolce, non è vino di proprietà, no? Ah, spumante dolce, buono. E invece che era di qualità buona anche. Se no, secondo cos'è? Lo sai che lo stesso problema ce l'ho anch'io. Io più di una volta mi è capitato di bere quello spumante, diciamo da 13, e mi fa mal di testa. Ma ti dici sono i piccoli. Una volta è capitato il mio compleanno. C'avevo pochi soldi, pochi lire. Il compleanno mio, ragazzi, c'era il supermercato lì vicino a casa, non c'è più. Lì vicino a casa, là, c'era la farmacia. E ho preso una cassa di spumante, 6 bottiglie. Bigu, bigu, baglia, buoni, magli, capo, pariani, pariani, ragazzi, me la cupo di un capo. Poi non ne ho più bevuto. No? Poi erano uno spumante così strano, fa mal di testa, vedete, oggi questa mattina va, bombo, è buono lo spumante, dolce, ma veramente doc. Cappa, gli spumanti buoni poi, anche quello si sente il sapore, invece gli spumanti, a me mi piace quello secco, mi piace molto quello anche. Ah, già li bevi tu gli spumanti, sì. Cappa, quando capita sì. Birra. Cappa. Invece proprio tu è astemio. Ma io già bevo la birra, già bevo il vino, solo che adesso sono da parecchio tempo senza toccarne. Vabbè, super alcolici, non so, con crema di whisky, quella roba lì, no? Sì, la crema di whisky mi piace, poi mi piace il mirto così, ma niente di che, ci beverò appena di acqua vite, ma niente di che, tutto, cioè poca roba proprio di... Ogni tanto così, ma ogni tanto, no, non sono un grande bevitore. Cosa bisogna per fare? Chi non hai inteso? Mia, hai detto, l'hai inteso la mamma, ti lo dice la mamma. Ti beverò. Sì? Beverò, mi beverò. vabbè, comunque, io lo stesso, no, vabbè, whisky zero, non mi piace, proprio zero assoluto, poi, vabbè. Crema di whisky, sì, il fuoco, bevo. Queste cose così, dai. Poi vabbè, c'è il Montenegro, è buono. Poi c'è l'amaretto di Saronno. Poi... queste cose così, dai. Queste cose dolci. Però spumanti così, come hai detto tu, secchi, no. No. Vedi, Luigi ha comprato un vino da un suo amico. Un tipo di produttore. Se l'ha fatto lui, va. È uno spumante, ma spumante, attenzione, correggo, un vino dolce, ma un bombo, ma da voi, cro. Da voi brucia anche. Perché quei vini così sono fatti così, cioè praticamente ti piace, bevi da voi, oh Iulia, appisatini da Gadria. sono un moscato. Mamma mia, di cosa hai fatto? Soprattutto quando è buono, lo so. Quindi per esempio il mirto da Depira si dice come una troncatura, che non ne ho più bevuto, più, ma quando lo beggo, mamma mia, mi fa stamattina il capo, solo a vederlo. Non è più bevuto, cioè quelli fatti in casa, per esempio quando l'ha fatto Luigi era, mi ha dato mezza bottiglia, mi ha dato tanta gribata, a poco, no, tutta la busca. Ed era veramente doc, non era molto forte neanche. Era veramente buono, però quello da Depira, mancherita. E quello l'ho bevuto anch'io, era molto buono. L'ha assaggiato quello rosso? Appa. E io bevo solo quello rosso, quello bianco no. Non è che sia così, ma no, preferisco più il rosso, dai. E vabbè. Ma quando capi te, mia, tu non è che sia gli hanno rubato in bunga B. Sì. Molte volte è capitato che non toccare niente. Solo aranciata, Coca-Cola. E buco, non sa bene roba. Non sa bene roba a cui cane, ciao. E vabbè, comunque. Già andava. Quando ne fai abuso, allora non va bene. Non va bene, perdono, per me. È stato un periodo, due, tre stati fa, forse, tre stati fa. E ogni anno tiro a casa in cicciato, perché ci organizzavamo a casa, c'è a casa mia, ad amici, letta, e la mia sincuba di... Qua 10 bottiglie di birra, 12 bottiglie di birra, se li gribavamo tutti. Signora Amara, io ho visto gente che da mattino presto, verso le 7:30 del mattino, si beve un whisky, una roba del genere, cognac, tabba via. Ah, per qua. Ci sono calcolizzato davvero. Diciamo che tu, la mattina magari che c'è freddo, no? Qua ci fa freddo, un bel una confitta di arrivelli e ti cambi subito, una e boom, stop. Noi facevamo così nei paesi, quando stavo lavorando a Tisi, ci ho lavorato per 4 mesi lì. Dopo mangiato, ci chiamavano, caffè la volete? Sì signora, c'erano un bel signore vecchio, facevano il caffè, si alternavano, ogni tanto quasi a guida, ogni tanto quasi a guida, e poi c'era un'altra signora in gamba, un bel filo verro fatto in casa di guida di quelli, ne cribavi uno, ti ci abitava, ma buono, veramente buono. Lo dico due volte. Allora, sono una volta mi sono incicciato, sono un po' ubriacato, ma la volta non l'ho fatto più perché mi ha fatto troppo male, mi ha pigiato a vomiti, mamma mia, non voglio manca a metà. Vabbè, io sbronte ne ho preso un bel, non di quelle pesanti, ma diciamo quasi, dai. Una volta sono iniziato la mattina di 10:30, 10:30, 11, birra, poi la birra non si parava più, non si parava più, fatta la parata. E ho mullato, mi sono attaccato limoncino, chi non si parava più, torna birra, andavi via la sera, era una palla. Qua è stato un bel male, ho anche vomitato perché io mai, io ero anche la più bella dolce. Quando, infatti neanche a casa sono rientrato, cioè, dopo, forse le 11 mi sembra, quando ho vomitato tutto quanto, ma sono rientrato e stavo benissimo. Ma prima, ero un capo piacente io. Papà, pure io sono stato male, no? Dal giorno non ho più toccato niente, qualche birretta così, qualche cosa, ma... No, mi ha preso troppo male, mi ha fatto male. Stavo male, proprio. infatti ho detto no, no, no. Perché ho mischiato la birra col vino, ma mi ha fatto proprio... mi ha crebato. La birra con le limoncini non è peggio. Chiappa, è peggio sì, è peggio. Infatti io ogni volta che me lo ricordo, mamma mia, cioè, mi voglio amare. Lo so, purtroppo è così. Purtroppo è così. Non bisogna mai mischiare, ma è una cosa lo stesso, che vabbè, lì diciamo un po', dai, non ero, non, già recicciato, da lui che abbiamo organizzato, io, lui, poi c'era Claudio, Franco, e abbiamo organizzato una rustita, organizzato vino buono, vino, poi limoncino, uia. Poi mi sono bloccato, si può dire la giovinità e ora in pulla, la bottiglia perché l'ha fatto lui di buono, ma cutta anche improvviso, a capo soprattutto, no, anche, però se così con gli amici ti metti a bene, perché così troppo fa, se mi dicono una cosa, perché sono quelle, boh, ma non esserci birra, vino, e chi d'altro, allora, questa amicizia. No, basta. Quello sbaglio che ho fatto io non lo farò mai più. Mai più. È il limite mio, se capita così che capita che cosa. Se è buono, se è buono, un bicchierino di vino, due, boh, basta, mi fermo lì, proprio perché. No. Fermo al mondo. Lo so. Lo so. Purtroppo è così, non devi mischiare perché poi la cosa è tribula e non fa, soprattutto devi mangiare, quello io lo faccio sempre, se no guai, devo mangiare, fare fondo, un po' di fondo, allora sì, se no... Chiappa Luca, però il problema mio anche è che sono anche un po' debole di stomaco su queste cose qua. E a me se c'è un qualche cosettina che mi fa male, mi fa male davvero, ma mi prende forte. Beh, quando non è debole di stomaco è un'altra cuba. È un'altra cuba tu. Casino, è un casino. Vabbè, io lo stesso, non è che sia... Io arrivo, poi una volta che arrivo a quel livello mi blocco, mica continuo. Poi c'è gente che continua, questa scende di luci, no, e non mi riesce. Mi viene una volta a stomaco e no. No, non mi blocco perché già inizio a sentire le cose che girano male, non ho stomaco, ora boh, mi blocco e si occupa i bussi. Poi, quando quindi un po' guardare la fretta, un po' guardare si bassa. Sono l'unica e poi tanto vale bene, nei gattinucci ci si appuscia. Caffa, ma ti va di mare un bel. La buccia mi sono seduto, come cavolo si chiama, qualcosa ti mette a testa in giù nella giostra. La catapulta mi pare si chiama, allora me ne ammento bene. E sta buccia a capo in giosso, beh. Dopo che me ne sono sceso, ho fatto quello sbaglio, io. Dopo che me ne sono sceso, mamma mia! Beh, se ci siete un ricordo pieno, a di che ti possiamo... No, non avevo mangiato quel giorno, ero... Però mi ha fatto male una testa, cioè mi ha crebato. A me non so giù chi pensa a me, se io giocavo solo nelle seggioline, basta. Quanti giorni l'ho fatto lì, Montagne russe, poi c'era roba roba, dischi volanti stavo sempre su, vedi sempre io. Mi facevi maniaco. Tu zitto, sei più porco fottuto che sta sulla faccia della terra. Ah, caro. Ciao Ale. No, la mia passione non sai cos'era, Luca. La mia passione era i go-kart. Allora sai quanto rifatti andare, Gesù Maria. Sì, io te ne dico, ma vai. Per carità. Ma no, mancano carrucci, questi macchinetti. Va bene, Tomè. Sì, buonasera a tutto, sì. Ma mai, come mai c'è qua a Barracchino? Che è quello che stava spacciando per te l'altra volta? Sono Pompunio. Avvi rubaria. Malonato. Sì, ciao. Mario è quello che c'ha quelle antenne. Ok. La casa mia è già pizzabile. Infatti, avvi rubaria, Lo segnale da voi. No, te l'ho detto, ti conosco, mi dice il bip per Barracchino. Ah, per quello mi hai detto. Avanti, via il papà. Ciao, Antonio, ciao. Ehi, buonasera, c'è Paolo. Adesso? Cos'è? Adesso quando vai a fare, quando vai a fare la visita, ti aspetta la bacia aperta. Ma cos'è questo? Adesso non ti vedi che la bacia in bocca. Che sicuro? Ti dai che il piede della pittorra. Chi che sta prendendo il microfono che aveva lui? Qui, mamma mia. Sono più ricci. Si è sentito su tardi, mezzanotte, anche più tardi. Io gli dicevo, vabbè, lasciamo a pizzi di barro qua. Già c'è capito. E non mi accorgo pazzia. Dimmi che no. E faccio la mano destra. Ma me la cuidiamo il microfono. si sente. Dalla quella della casa di mamma tua. Cazzo, era un canto, si incazzava la luce, ma l'una di notte, l'altra di notte, un casino, madre. Si incazzava che era allucinante. Ora entrava, poi siamo rimasti qua a passaggi corti, va bene. Abbiamo passaggio 5-6 secondi, l'altro passaggio 10, l'altro, e poi c'è 10 minuti, mezz'ora. No, però, io cambiamo canale. La bella non mullava. Che si rendeva conto, non c'era più nessuno di bici che andava sul canale. Grazie, non me lo ammetto, cazzo, ma già delle mortate, mezz'ora gli c'ho troppo poco. Io la volta non sentivo sul canale, ma dicevo, ma un cane. La curiosità di me era accanto a Rivia, no? Le contava i minuti e la poi dall'altra parte non c'era più nessuno, cazzo, c'è un cane come vedete. Ma ce l'hai CD2? No, non ce l'ho, no. Io te lo faccio masterizzare, eh. Allora, te lo fai tu. C'ho un occhio da una piccola, metti vicino a casa, te lo faccio qua. Sentire a vedere, per carità. Chissà il Dio era su che zeava. Però se abitava in chimi, quindi no. Andi abitava la segretaria del Mocca, dove c'era l'ufficio IVA. Ma la lì se n'è andato. La regione Gesù, Giuseppe Maria, lui si è pompo. Sì, di fronte all'ufficio IVA. All'ex ufficio IVA, e prima del passaggio a livello, là. Dove c'è adesso cosa si chiamano il bar, le fere, una cosa del genere. Sì, vabbè, di vicino, va. Mi sono avanti, ma l'avevi piazzato una volta, più di una volta. L'ultima volta c'è stato via 27, gli ancora lì piazzato. Poi la Mantova gli ha spaccato il tuo fratello Stefano, di notte, verso gli 11. Sei ragazzo da una macchina? Ah, ma l'aveva agganciata quella cazzo in macchina, e lei si è portato, ha tirato il girante e ha parlato tutto la testa, ha preso tutto l'aveva agganciato. Che sia. C'eravamo io, c'eravamo io principessa, tu c'era una bella lima di coso, in quanto la parola. Che farà con l'amico suo, stava fatto anche, era buono. Mi ha fatto, non so cosa ha fatto, la verità, ha saltato il calcio, lo sono sentito sul palpebre, ha preso tutto il giro, dice dum dum dum dum, tutto a terra. Sì. La voce non se ne ha più piazzato, così. Però chi ha chiamato Stefano? C'è la Paoletto, non rispondi, e lui, tutto bastardo! Sì. Anche Luca la faceva uguale, Luca con il carica, no Luca, non Luca, a parte Luca di carica, che cosa? Quello abitava lì a Cina Carica, non mi ricordo se non era più come si chiamava. Che bucchia questo qua, comunque Antonio lo fa venire, lo fa uguale, uguale, proprio lo imita, bene. Che ho su Luca, Luca c'è Luca coso, ci arriva. E lo faceva lui, poi anche Salvatore, adesso mi ricordo come si chiama, che abita da Piccio. Non lo so. Che state a Maghi, insomma, io sono vivo morto. Mi sembra che abita con la sorella adesso, che vorremmo più la madre. Non sai la mamma. Sì. Maledetto gente che sta già sotto. Nabile. Intanto ho guardato il buomi pompo. Capitano magari scendevo lì a va. Come si chiama qua? Vabbè, un paio di anni fa, Qua c'è un mercatone. Sì, delle volte avanti poi ci incrociavo in chi. Falcone, la bandava. E tirava dritto. Sono molto più smacchiglia, pure lo avevano qua a Santa Maria, che praticamente l'hanno mandato via da qua. Fidanzatori no? Sì, fidanzato, con quell'amico suo grasso usciva sempre, da sacoli anni. Ma che abba, comunque gli hanno combinato, che lui. La madre è morta di crepa al cuore. Ma non si può proprio che uscisse in giro. Vabbè, capito. Vabbè, guarda che ti dai dei vettori. Ancora ne era rimane. Non devi aspettare la casa. Ho già fatto le valigie stasera. Tutta la roba già pronta. Devo solamente aspettare il 15 e poi quando tra poco dove andrò, bisogna vedere ancora. Non posso fare nulla. Posso stare fermo qui e in età. Come fa a portarci la roba, Antone? Io cerco un furgone, qualcosa del genere, una bocca rotella, non ci sa se sta portando qua. C'è quello di Colami Corta. Posso chiedere le tranie se non sa nulla a fare. Mi fa un viaggio, viene qua e non fa nulla, cioè si rimane giù in macchina. Non voglio che prenda la fredda. Ma giù in macchina mi carico queste 10 scatole che sono già pronte, fatto, e frigo di ferro, non c'è altro. Vabbè, c'è Natale non stava guardando adesso. Sì, per quello, ma lo faccio di domenica, non è che lo faccio di cose, ma devo aspettare dove andare, posso fare le cose, andare bene così, devo fare due viaggi in pratica. Dopo il 13 c'è un mese di tempo per cercarmi in casa. Prima non posso fare, non posso neanche prendere in casa, sembra l'aver già presa. Io, cappaga. Vabbè, già. Se voglio lo dico, non c'è problema. E te lo fa. Paghi i viaggi e te lo fa. I viaggi, uno solo esce. Basta. Noi già saliamo su sopra il tetto, noi facciamo un'antenna così ti inverti con quelle lì. Ah, se si vuole capo a terra. Oh, lì che non abbiamo telegramma a terra. C'è lì una, dice che lui piace con la roba italiana, dice che è meglio quella brasiliana, ha detto una lì. Aiutare la cultura di questo zaino. Dopo vuole vedere gli uomini adesso. Sì, accidenti, 19 anni c'è allora, non ti credo che ne abbiamo molto. Che ne scando? Io? La fa, abbassa un po'. Anzi, abbassa in ruta a fianco. Ciu ciu! Ah, vado montando. Va a andare meglio. Sì, adesso va meglio. Andare, andare. Cioè, chissà chi se lo prenderà quel dove sei tu adesso. Che cosa che da là? Due di quelle, io là. Mi piace, anche due, tre o quattro. Vabbè, ma sta la roba che c'è lì, sta roba tua, tipo l'avello, sta roba così. Ah, quella è tutta roba sua, lì c'è la cucina, il frigo e basta. C'è una roba piccolina là, questa è la mobilia, roba sua. Ah, certo. Ah, giugavitte. Vabbè, sta vabbè, la figura la tua, così, quella roba lì. Via. Ma te li paghi 300 lì? Sì. Presento io. E mi sa che me lo pagherò. 75 metri quadri? No. 900 euro. Quanto? 900. E quanto? 75 metri quadri a Roma. No. Certo. Purtroppo è così. Capito? Quelli che hanno appartamenti sono loffi, fanno quello che vogliono. Noi siamo obbligati a pagare. Non fate nota. Solo 100 euro. Ma chi è che c'è a Roma? A Roma è caro l'appartamento. Non è che costa se ci sono appartamenti a 900 euro, 1.200, dipende. Ma a questa parte ce ne sono pochi. Bisogna avere anche mobiliati. Bisogna avere cosa trovi. Ehi, ma arrivato a questo punto, sì, c'è un lavoro, lavora anche la moglie, che è un mutuo, c'è la compra a casa, sino che usi e... Come fa una persona cioè, a spendere 1.200 euro ogni mese? C'è un pacco di dinami. Il mutuo è peggio, perché il mutuo è prezzo variabile. Se tu fai il coso, prendi il mutuo per 500 euro al mese, per dire, a un certo punto aumenta tutto, il mutuo ripassa da 500 a 800 euro, la banca non è una fruttinuta. Se tu guardi già là, sai quanti casi sequestrati ci sono all'asta? Con pochi soldi, se c'hai contanti, vai te la compareggi e fai prima. E la casa è la tua. Tua mobiliata, non solo l'altra. Ehi, vabbè, quello perché non hanno più pagato, ecco perché. È entrato di secondi di vola. Ma che beh, certo, mica ti lasciano in casa. Non viene più l'affitto, come adesso. Molto non conviene, quando le cose andranno meglio, che cambierà tutto, allora molto andrà bene. Visto adesso come siamo, con il governo che c'era prima, la gente moriva di fame e ne piava pure la casa. Ricordati che nella Calietà ci sono campagne, anzi non campagne, aziende, tutte sequestrate all'asta. Figurati, aziende di 700.000 euro avevano 200.000 euro, 50.000 euro, capito? Arrivavano con i fuori, si compravano l'azienda, poi andavano e facevano i fabbricanti. Ehi, vabbè, Antonio, ma pagare 1.200 euro, ma anche 800, è per caro, ma sta scherzando. Come fa uno? Ma non fa, è troppo. Ah, se uno sta lavorando, conviene farsi comprarsela praticamente. Uscire da bui, la gioia è boh. Se ti fa giù di conti, cazzo, 800 euro al mese. Ma pure se senti sono un bel di là. Arrivato a questo punto conviene comprartela. Se lo paghi, piano piano, e poi domani diventa la tua. E così si fa. riesce a pagare l'affitto, ma cioè l'affitto a muri, cioè la casa praticamente rimane sempre a Iddu e ci guadagna pure. Cioè, a questo punto mi la comprassi, va via, taglia la testa al toro e ciccia. Va bene Luca, va bene, è un casino adesso, piace molto, un casino proprio meglio di niente. Poteva aspettare, quando è così il sistema, allora sì, prendi il butto e c'è sempre quel tasso in 30 anni. Adesso purtroppo quando fai il mutuo trentennale, non ti paghi 500 euro mensili per dire di mutuo alla banca, ma domani ne puoi pagare anche 1.200 al mese, non ti conviene più, scusami. Allora se ti devi metterci 30 anni a pagare, ce ne metti 40. E se non ce la fai, se per caso magari perdi il posto di lavoro, sei precario, perdi tutto e la casa te la metto all'asta con la mobilia. Il discorso è purtroppo così. Ma poi non puoi fare affidamento a nulla. Se c'è una cosa ti conviene essere provvisoriamente prendere l'affitto. Poi una volta che c'hai il lavoro che sei tranquillo, allora sì, prendi un mutuo, ti fai il minimo. A posto di farti consegnare alla banca, vai da un consulente, ti fai consegnare al consulente e ti dice è molto meglio questo che, molto, che quell'altro, capito? Se la banca non gli affronta nulla, se c'è la assicurata qualcosa non ci passa due volte. E hai visto il negozio di fronte a casa mia, quello di Valle Scapa, che fine ha fatto? Ah, per un mese gli ha sottoposto la banca. Minimo, quello lì all'asta pagava 1.000.000 di euro, 1.500.000 di euro, non di più. Capito? Nuovo e nuovo, quel fabbricato con tutto dentro. Io non so, poi non si incasina così, ma... E vabbè, diciamo che deve essere sicuro quando uno ha un lavoro fisso, che è sicuro, allora può anche fare. Però, no, a quanto so io, quando uno chiede un mutuo si fa il corso, no? Non è come stai dicendo tu che, cosa ne so, chiede un mutuo ogni mese deve dare 500 euro, magari poi ti aumenta. Come cazzo fa uno, scusa? A dannare di più. Se è quello, è quello. Prende quella cifra lì ogni mese. E da quei soldi uno deve anche mangiare. Se devi pagare solo un mutuo, non sa mangiare i mani. Quindi non è così, come pensi tu, Luca. Non è così. Purtroppo la banca fa gli interessi su di tuoi. Se dice mutuo così non gli sta più bene, te lo aumenta e devi dargli di più. Il discorso è quello. Se no, non ci sarebbero state tutte quelle case all'altra del tribunale, no? Capito? Il discorso è così, ormai col mutuo non pigli più niente. Guarda che quelle aziende che hanno fatto il mutuo con la banca, adesso sono tutte all'altra a tagliare, tranne quella che da poco ha vinto, meno male. E boh. Così è per fare. Non è esattamente così, no? Lui dice, sì, da una parte, cioè già ci sono queste cose, ma sono più penalizzati attualmente quelli che fanno a tasso variabile, capito? Cioè, ogni, si può fare anche, per esempio, ogni 6 mesi, che ne so, stabilisce ogni 6 mesi versi 2 milioni. Che sei per te che non è così, cioè fanno quello che vogliono loro, che tu già lo sai più di me, per fa quando c'è il tasso, no, se ne pagavi 1.200.000, dopo ne paghi anche 1.800.000, 2 milioni, per dire, ma hai visto come sono i, come fa l'andamento della moneta, quindi purtroppo è così. E infatti sto dicendo, sono alcune decine di migliaia di italiani che hanno fatto lo sbaglio di fare il mutuo a tasso variabile, che infatti attualmente con le leggi che ci sono adesso e tutto quanto, sempre come sta andando l'euro, che ci sono queste cose che appunto sono rimasti pregati, gente che hanno messo in ginocchio, vediamo se quella banca ha sequestrato la casa, perché appunto c'è stata questa variazione, c'è gente che doveva pagare in un anno, per esempio, che ne so, doveva pagare 5.000 euro, si è ritrovato a dover pagare 10.000 euro, ecco, perché il tasso variabile ha prodotto quello lì, ha prodotto soltanto due sequestri di case, ma... Perché le banche raccontano che potrebbe succedere che il costo del denaro diminuisca, potrebbe aumentare. Invece è tutto il contrario, purtroppo. La banca, già lo sai che l'usuraio normale e quindi fa quello che vuole, a loro non ne fregano niente. Tu immaginati per banche c'è un edificio sotto a casa di mamma, nuovo, nuovo, nuovo fiammante, appena finito di costruire, quanto è durato? Un mese, lui. Aveva sequestrato tutto la banca, non ne ha fregato niente. Più la parte gli ha sequestrato tutti i terreni, altri tre o quattro cose che ci aveva, è rimasta quella terra, scappa Antonio. Infatti se tu vai nei negozi della polizia c'è solamente il figlio, non c'è nessun altro. Lui è mandato in pensione e gli ha detto alla figlia, dice, se ti fai sequestrare quello e questo, dice, hai finito di lavorare, arrangiati. Io volevo dire, ultimamente le cose non stanno andando bene, sono state anni addietro tutte queste cose così, con le banche che hanno fatto, cioè hanno fatto, stanno facendo il bello e brutto tempo, e adesso con le attuali leggi si sa che devono finire così. Purtroppo la gente è andata a finire un po' male, gente che ha rimesso le case e che ha pagato, pensa, è arrivato a pagare anche più della metà, anche è rimasto fregato. E quando si chiudono queste cose con le banche bisogna stare molto, molto, molto attenti, perché la banca non dà di niente mai niente. Sono usurai e basta, sono usurai dello Stato, sono altro. Un attimo che sono al telefono, riprendi un attimo, mi stai riposando il braccio, facci un braccio secco e non ha paura, il braccio secco, come stai facendo? Quel caso mi viene male, con posizione importante. Come è pure un freddo, c'è il microfono a tavola. Allora, di tavolo, di tavolo, di legno c'è. Qui c'è il microfono di... non di tavola, di comodino. Allora, a tu. Quindi... tu? Non ci ho mai provato io. con voi. Penso di sì, può farla. Io nel microfono questo qua ho cattolo la capsula di un più portatile, va molto meglio della capsula sua, la metà di ricchia. La capsula di un portatile è come, però io parlo di un microfono tipo quella grande lì. C'è una più piccola di quella, forse ci sta bene. Una più piccola? Sì, una più piccola c'è una di quella lì. Penso che ci stia dentro. La questione è grande quanto la circonferenza del microfono. È una sua girata. Però la voglio provare. Provare. Si sente anche il respiro, la mosca si sente volare. Quella di campagna uno ce la cacca. Ma ce l'hai tu il mio più 4 per fare. Scappa! Ah, te l'hai comprato? Caffa! C'è una modifica, bene già qua. Fa una modifichetta, mica te io la lascio. Modifichetta? È un ponticino là, che ci fa nel circuitino. Ah, il ponte è un circuito. Caffa! Questa capicetta non mi piace banita, boh. Mi sento attenti, eh? Io sì. Se male il cazzo di un coso, un male, uscite con di blavaghe. Così alta. Beh, io mi tengo con me, vi saluto. Ci sentiamo lì, mette la mano, là. Fate da bravi. E contate un po'. Ciao, buon po'. Ah, brucia, buonanotte. Ehi, allora, appena attacco l'antenna ti chiamo così. Vieni, ti faccio inchiappettare queste ragazze nuove che ci sono. Se glielo dico io, avresti molto meglio quella del brasiliano e quella tua, e come? Tu l'hai fatto apposta, vedi, come cosa mi dici? Gappa, gappa, andava. Ciao. Ciao. Buonanotte. Buonasera. Oh yeah. Yeah. Yeah, yeah. Ma l'ho visto, mi sono simpatico. Cosa? Sarà, ma l'ho visto, mi sono simpatico. Cioè, lo sai che mi fare la modifica giusta, sentiamo questo qua, sono sicuro che va alla grande in quella parte che sto andando adesso. Qualcosa più qua? E a quello che sto andando tu, MB più 4, e questo è questo? Io ho capito. Cos'è che hai detto questo o quello, Tu hai detto quello è il più 2, il più 4, così. Ma stai nascando. Adesso? Stai nascando. Sempre. Adesso? Stai nascando. Ancora? Vai. 1, 2, 3. Adesso no. Ma se per più 4, Questo è il più 4. E non ti favo c'è un bestiano, ma è grossa, c'è con il Turner, esci meglio. E lì bisogna fare. Bisogna provare più capsule. Più capsule. Fa modificare la Natalino. Ora ti pongo la capsula in greco. Prova a vedere. Prova, se ce l'ha, io ne avevo un bel giù di dati. Fumane, Gio. sì, i telefoni quelli bianchi. Sono piccole come quelle. No, e quelli lì vanno meglio. Uomo su una di quelle io, un altro microfono, nemmeno 93. Un buon po' via. La batteria 9 volts. Mi c'è la Roberto Quadrato. C'è bene col 48. Vabbè, spinge bene, sì. Guarda, ce l'ha. Nel 93 ce l'ha, ma è così di dritta, stai fuori in cambio. Si sente bene. Ce l'ho bene, alla grande. Comunque questa capsula grande gliela provo. Come gli altri spazi? Non so, io non ci ho mai provato la dritta. No, non do più visto. Non do più perché la capsula è già... come si dice? È già... ho dovuto fare una modifichetta io perché ormai non stavo più andando. Avevo disaldato un giorno. E mi si è staccata la saldatura che c'ha. C'è due saldature, hai visto, dalla parte dove è salti. E mi è rimasto solo il piedino. Ho dovuto fare una modifica, sennò era da buttarci. E infatti non lo do più più, va. Mani pulci come te. Finché va, lo lasciamo andare. Non ho visto la pelle. No, ma io provo a cambiare la capsula perché io, ripeto, non mi sta simpatica neanche. Questo vabbè, questo è a posto, non c'è nulla. Va alla grande. L'ho fatta io, l'ho messa a posto la capsula, ok. Ma stavo di saldo, non si è staccata la saldatura, forse il saldatore è suonato troppo, io l'ho lasciato sopra. Ecco poi si è staccata. Ma è già fatto un lavoretto. Va. Si stacca più, va. Cos'è in quelle di telefono piccolina? È uguale, però questa qua invece di avere qualcosa sopra nero è tutta bucherellata. È grigia, tutta bucherellata sopra. Come c'è la retina, che ce l'hai fatti tu adesso, davanti nel microfono, così la capsula mia. Ho provato altre, ma l'unica che va bene è questa. Io ne ho dato una da Daniele, tipo questa, però più fine, più bassa rimane. E sono messa nel più 5, lui se lo trasce bene. Adesso voglio provare, non è che io a sta lui, eh. Si prova a metterci una di un telefono, che ci fa vedere come va. Oh, va, tentare non nuoce, sta a fare le proprie. Sono stato a procurare il telefono e la proprio. Provo, voglio vedere come va, perché questa qua non mi sembra molto là. No, stai di nuovo innescando però, cioè il innesco sotto a fondo. Sto di nuovo innescando. Che è importante? Parla. Parla che fa. Vuole che innesca? È un po' bello te lo fa, vero? Fa leggermente. Io sono fatto che innesca anche lui, non dico, eh. Non c'è il rumore che fa il tarme, fa ti ti ti quando si ce la portate, ti ti. Ma c'è sta qua il pulito pulito. Non si sente neanche la canzone al microfono. E noi non mi sentite lui. E non si sente quando schiaccio, va. Perché il tuo sicuramente è più forte di capsula, capita, ricapita più, il suono lo ricapita più forte di quello lì sicuramente. Se capita domani per passare a Giugana, sì, in Giugana, ti provo, gli metto un condensatore, con quello che ce ne metto un altro, ti vuoi un attimo impigni, però metti cambia la timbrica, la fa un po' barattolosa, però la sono andato a spingere. E qua non si sta innescando adesso? Ah, sei più forte la radio, c'è un abisso, cazzo. Ma non hai visto, però. Io non so sbaldarne. No, no, quello c'è sempre il più 4, eh. Ah, vedo. Sì. Credo che ci sia qualche problema di massa. Ma sta andando bene. Adesso sai dove è poggiato sopra il baracchino. Adesso va benissimo, Peppa. Benissimo. E ho già capito di cosa si tratta, non lo deve fare però. No, anche se lo sopra il baracchino, ma io se lo sposto non me ne fa di quel problema. Ma... il tunnel non lo fa, ad esempio. Adesso sta andando bene, bella, va bene. L'ho intuito che è un problema di massa. Addirittura quando allontano me ne accorgo anche dal segnale. Adesso va più che bene. Ecco, fatto un problema da vedere. Cava cava, ma va benissimo. Aumentata di parecchio, no? No, va bene, va bene. Va bene. Non so. Prova a modificarla, va bene. Modificando va a scendere ancora di più. Adesso guardo questo problema di massa e poi voglio vedere la cassa. Comunque così va bene. Va bene. Spinge, spinge. L'ha toccata nel rosso sopra il baracchino per funzionare così. Aspetta, problema di massa. È quello. Fai un calo di massa. E le cose sono due, abbiamo portato un filo e li fermiamo così. Infatti potresti fare così. Gli attacchi sotto al tappo dove ci sono le vitti. Ma non deve andare così, capito? Deve andare come deve andare, senza niente. Quello sì, ma io l'ho sposto, non era problema, ma per quello anzi, non problema. Quanto altri scavo che non sia magari un po' messo male, buttami sopra. Io nel mio gli ho messo quello di M1000, che mi aveva fatto Gianni. Aspetta un attimo, faccio un'altra prova, eh. Va bene. Io voglio mettere il capo grosso, l'antenna. Gaba gaba, gaba gaba. Ma com'è adesso? Brava. Uno dei tre. Che il Darnell. Dimmi di no. Non dimmi di no. Adesso com'è? Che il Darnell. Eia. Va bene, Chiara. Va bene, va bene. E vedi, questo lo sposti e non c'è differenza. E per qua invece è così, è il problema di massa. E quanto l'hanno per farglielo, non so, vedi un po'. Quanto l'hanno lo spinotto, si è attaccata bene. Vabbè, va, io per stanotte chiudo, dai. Ti lascio dormire qua, se no non trovi. Ci risentiamo tutto domani, se coincide, buonanotte. Eia, ciao Peppa, buonanotte, a domani. Chiudo pure io, ma che non oggi più piana. Vediamo un po' se riusciamo a prendere il sonno, se mi guardo un po' di TV. A domani, ciao a tu anche a te, a domani, buonanotte. Ma ciao Luca, ciao. Pure io, chiudo tutto qua. E ci risentiamo domani. Ciao. Buonanotte. Appaccio. Ciao. E quelli che stanno ascoltando un e la recce di buco. Una bella pannacchia, gliela facciamo, tu l'hai una tu. Va bene, dai.